Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, forse in questi giorni qualcuno di voi intraprende un piccolo viaggio, una gita, allora vi voglio segnalare qualche libro di viaggio a partire da una meta sempre affascinante alla quale gli italiani sono affezionati, cioè la Costa Azzurra, che possiamo ripercorrere passo a passo, città per città, nel tracciato del libro Il romanzo della Costa Azzurra di Giuseppe Scarafia, pubblicato da Bompiani, 382 pagine, 19,50 €. Come vi dicevo appunto è un libro fatto a tappe da Mentone fino a Marsiglia, nel quale viene raccontato città per città, tappa per tappa, la storia della Costa Azzurra, soprattutto quella scritta dai letterati che hanno contribuito a crearne il mito a partire dal 1887, quando, ci spiega Scarafia, un ricco letterato di secondo rango, Stéphane Ligeard, diede un nome a questa spiaggia bagnata dai raggi del sole che merita di essere battezzata Costa Azzurra. Queste le parole del letterato. E intanto Maupassant parlava di un giardino incomparabile che inizia a Hyères e finisce a Mentone. La Costa Azzurra avrebbe svolto un ruolo essenziale nel milieu letterario, soprattutto francese. Per esempio Cocteau spiegava che la Costa Azzurra era come una serra rispetto a Parigi, la serra in cui spuntano le radici, Parigi è il negozio in cui si vendono i fiori. Ma non ci sono solo francesi che hanno fatto il mito della Costa Azzurra. Nel libro si parla di Tolstoi, di Fitzgerald, di Jacowski, di Mogam, di Malaparte, di Zweig e di tanti altri. Gli inglesi e gli americani, in particolare nel primo dopoguerra, avrebbero lanciato una nuova moda proprio sulla Costa Azzurra, quella di abbronzarsi, che per la verità era stata avviata da Coco Chanel. E poi troviamo tanti altri episodi via via fino al secondo dopoguerra, quando la Costa Azzurra, grazie anche alle nuove generazioni di letterati, diventa un mito di massa, un mito di cui adesso parliamo con l'autore. Buonasera Giuseppe Scarafia. Buonasera. Giuseppe Scarafia, lei ha scritto un libro sulla Costa Azzurra perché questa è diventata un mito nell'immaginario collettivo. In che senso? Che cosa rappresenta nell'immaginario di tutti la Costa Azzurra, a suo parere? Ma è un sogno impossibile che coniuga la natura e la mondanità, il selvaggio e il raffinato, il noto e la campagna. È veramente un paradigma unico del mondo. Il suo libro si snoda in una serie di tappe, da Mentone a Marsiglia. Qual è stata la tappa più sorprendente per lei? La tappa più sorprendente per me è stata Saint-Tropez, cioè Saint-Tropez che per noi è l'epitome, no, della mondanità, invece vedere che era un villaggio in cui gli abitanti parlavano una lingua che non veniva neanche capita, che non c'era neanche un albergo ma una specie di locanda per marinai che puzzava di salmastra, poi di colpo vederla animarsi con François Sagan, Brigitte Bardot, Sartre, veramente una trasformazione impressionante. Fu proprio la Sagan a far cambiare il destino di Saint-Tropez. Fu la Sagan in una di queste sue gite, perché lei decideva all'ultimo, in piena notte, a Parigi cosa fare, se andare di qua e di là, e sempre più spesso saliva su queste sue grosse automobili e a tutta velocità andava in Costa Azzurra. Andava a Saint-Tropez, dove passava però la maggior parte del tempo appunto a festeggiare la notte, e si alzava al mattino molto tardi. E invece il personaggio più stravagante che ha incontrato in questo percorso? Stravaganti ce ne sono veramente tanti. A me è molto piaciuto Romain Gary, che si era rifugiato in una casetta nell'interno e che scriveva in una torre con tutte le finestre aperte al vento, quindi ogni tanto arrivava il vento e tutti i fogli volavano. In questa galleria di personaggi ci sono relativamente pochi italiani, uno per esempio in Malaparte. Come mai gli italiani non sentirono, non parteciparono a questa corsa verso la Costa Azzurra, anche gli italiani benestanti? Avevano la nostra Riviera. Diciamo che gli eroi della Costa Azzurra sono gli inglesi, che non a caso, infatti, poi a Rapallo abbiamo Pound, abbiamo Max Birbom, inglesi che hanno colonizzato, diciamo, quella zona del Mediterraneo. Sono loro che hanno anche trascinato i francesi. E secondo lei la Costa Azzurra oggi è più un luogo da cineasti, da scrittori, da playboy, da pittori? Tutto insieme sta risorgendo ed è un vero miracolo, perché di solito i luoghi si esauriscono, mentre invece la Costa Azzurra ha una natura talmente forte da continuare a attirare sia l'elite che le masse. E fra le masse ci sono anche i russi, mi pare. Sì, i russi che danno quest'ultima ventata di ricchezza che una volta davano agli americani e che invece adesso la conferiscono loro. Poi c'è la tappa Monte Carlo. Qui lei non parla di Greschelli, è vero che lei non fu una viaggiatrice ma fu una residente, però diede un contributo fondamentale al rilancio dell'immagine di Monte Carlo e della Costa Azzurra. Certamente, io mi sono limitato al punto di vista degli scrittori, che è veramente buffo, come Chekhov che con un amico si esercita per mesi con una mini roulette e poi va e perde, o Walter Benjamin che invece vince i soldi per fare un viaggio. Ecco, il mio punto di vista era quello, ed era un punto di vista abbastanza schifistoso, dicevano questo reame che sa di ambra sovale. Era, diciamo, il Monte Carlo era un punto estraneo e proprio per questo fondamentale nella Costa Azzurra, era il punto in cui uno si allontanava da queste nozze con la natura per ritornare nella cultura e soprattutto per misurarsi con il gioco d'azzardo. E oggi che consigli darebbe agli italiani che si avvicinano alla Costa Azzurra, che vanno a visitarla, oltre che leggere il suo libro? Quello indispensabile. Dunque io darei prima di tutto di lei sa che ci sono le tre cornici, le tre strade, no? Che solcano la Costa Azzurra, di prendere la cornice, la strada in alto da cui si ha una vista meravigliosa e poi di andare a Chouin-les-Pins. Ecco, Chouin-les-Pins mi sembra il posto ideale che ancora mantiene il sapore di quegli anni. Grazie a Giuseppe Scarafì, autore del romanzo della Costa Azzurra. Buona serata. Grazie. A un certo punto a Nizza nel 1931 nel libro di Scarafia incontriamo Antoine de Saint-Exupéry, che proprio là il 22 aprile si era sposato, tra la diffidenza di alcuni parenti aristocratici, aveva sposato Consuelo, conosciuta in Argentina. E mi fa piacere ricordare questa tappa dedicata a Saint-Exupéry, perché non possiamo far scadere quest'anno senza ricordare che questo è il 70° anniversario della pubblicazione del piccolo grande libro di quell'autore, cioè Il piccolo principe, che l'editore Reynal fece uscire negli Stati Uniti il 6 aprile 1943 in francese e in inglese, quando Saint-Exupéry stava per abbandonare gli Stati Uniti e unirsi in Algeria come pilota alle forze armate libere. La prima edizione del suo libro sarebbe uscita in Francia soltanto nel 1946, dopo la scomparsa in una missione aerea che avvenne il 31 luglio del 44. E di Saint-Exupéry esce adesso una completa e appassionante biografia che porta il suo nome e che è stata scritta da Bernard Marc, che è uno scrittore francese esperto di aviazione. È pubblicato da Odoi, a 574 pagine, 28 euro, tradotto da Marco Pegoraro. Quella di Saint-Exupéry è certamente una figura complessa, fu scrittore, aviatore, combattente ed era discendente da una famiglia di alto lignaggio, fu catapultato a Parigi nel 1917, incapace nei primi anni di vita di trovare la propria vocazione, fin quando scoprì appunto l'aviazione e l'aereo, che servì in una carriera militare prima, poi dopo un incidente in una carriera civile e per diventare poi anche letterato e giornalista fino all'esilio negli Stati Uniti e l'arrivo finale in Corsica, da dove prenderà le mosse per la sua ultima missione. E la biografia ci restituisce i tormenti vissuti da Saint-Exupéry nel campo sentimentale, politico, letterario e umano, come dimostrano queste righe su come nacque il capolavoro di Saint-Exupéry, Il piccolo principe. In fondo si tratta dello sguardo triste, ma non privo di speranza, che un adulto posa sul mondo dell'infanzia, quel breve istante d'eternità che ognuno vorrebbe far rivivere. Arriva il momento del passaggio all'età adulta, le cui certezze respingono i sogni e le illusioni dell'età dell'innocenza. Le illustrazioni di Adrien Segur accompagnano e completano un testo velato di delicata nostalgia. Saint-Exupéry si butta volentieri sul nuovo libro, perché ad accoglierlo c'è Bevin House, una nuova oasi, distante dalla guerra e dal passato, propizia alla scrittura di una fiaba venuta da lontano, da molto lontano. E avviene lo scatto. In attesa da lunghi anni, finalmente si produce perché tutte le condizioni propizie sono riunite. Si avvia un meccanismo perfettamente oliato. Il piccolo principe, che Saint-Exupéry porta con sé da sempre e che di certo è una proiezione idealizzata dell'autore, nasce, vive e scompare a Bevin House. È in quel paradiso che Consuelo e Antoine de Saint-Exupéry avranno quel bambino, quel piccolo principe. Se lo godono. Finalmente ci vivono insieme. Certo, gli amici affluiscono, ma Antoine sa rifugiarsi nella sua torre d'avorio, il suo antro con carta, matite colorate, termos da caffè, caramelle alla menta, sigarette. Vi invito adesso a un altro itinerario francese, e non soltanto quello cui ci indirizza un filosofo convertitosi alla decorazione, il milanese Roberto Peregalli, nel libro Proust, frammenti di immagini, pubblicato da Bompiani, 340 pagine, 25 euro. E anche qui si ricorda un anniversario, perché il 2013 è stato il primo centenario della pubblicazione del primo volume della Ricerca del tempo perduto, che fu pubblicato appunto il 14 novembre del 1913. Questo è un libro molto particolare. nel quale le 314 immagini, quasi tutte foto dell'autore, dei luoghi prustiani si accompagnano a delle riflessioni su quei luoghi e sullo scrittore, e riflessioni che sono presentate dall'autore come un diario di bordo, come un quaderno di appunti, scrive, corredato di fotografie e di disegni su ciò che si vede nella recherche. Una sequenza di attimi di azioni che costituiscono alla superficie del testo solo la cima dell'iceberg. E ve ne offro una testimonianza con queste righe sul luogo che a tutti noi è familiare, cioè Venezia, che Proust visitò con la madre nel 1900. Atrio dell'albergo, pomeriggio. I bauli pronti per essere imbarcati. Proust dice alla madre che non vuole partire. Un portiere gli consegna una lettera. Proust sulla terrazza dell'albergo, seduto a un tavolo davanti a Canal Grande. Vede la madre salire, affaticata, su una gondola. In una barca, ferma davanti all'albergo, un musicante canta «O sole mio». I palazzi sembrano sbriciolarsi nella luce che svanisce. La voce del cantante risuona nel silenzio. Il sole che tramonta dietro San Giorgio Maggiore è una palla velata di scuro. Proust, in stazione, corre al treno. Sale con affanno. Come sentite, una serie di impressioni che hanno un obiettivo ambizioso, quello di restituirci l'occhio di Proust, che, dice l'autore, osserva, cerca di decifrare la materia del mondo illuminando l'infinitesimale piccolo e trasformandolo nello specchio dell'essere. E a questo punto la linea alle informazioni sul traffico. Un libro tira l'altro. Continuiamo con i nostri viaggi di carta. Adesso andiamo nell'altra parte del mondo e ci andiamo però sempre in compagnia di un grandissimo scrittore. Questa volta è Mark Twain, che nel 1866 fece una spedizione nelle isole Hawaii, traendone delle corrispondenze per un giornale di Sacramento. E ora queste corrispondenze vengono pubblicate da Cavallo di Ferro. Il libro si intitola Lettere dalle Hawaii, 304 pagine, 17 euro, ed è curato da Alessandro Gebbia e tradotto da Virna Conti. Mark Twain non fu soltanto inventore della letteratura USA, così lo salutò Hemingway, ma anche del giornalismo, e qui ci dà una testimonianza di questa sua grande capacità. Tra l'altro questa è la sua prima opera coerente in qualche modo, perché fino allora aveva scritto degli scritti d'occasione, tutti isolati l'uno dall'altro. Questa invece fu un'occasione che gli permise di scrivere intorno a un tema specifico e organizzato letterariamente con capitoli e paragrafi. Ogni lettera gli venne pagata $20, tranne una molto più lunga sul naufragio di una nave, sulla coraggiosa resistenza dell'equipaggio, che gli fu pagata ben $300. Sono scritti questi articoli col proverbiale humor di Mark Twain, come dimostrano per esempio queste righe sulla visita nel Parlamento delle Hawaii, che allora erano ancora un regno indipendente. Solo 30 anni dopo, infatti, le isole sarebbero state annesse agli Stati Uniti. L'Assemblea legislativa si riunisce nella sala della Corte Suprema, locale più ampio, luminoso e meglio arredato di qualsiasi aula giudiziaria di San Francisco. Una sbarra, da una parte all'altra del centro, separa i legislatori dai visitatori. Quando ho raggiunto l'entrata principale dell'edificio e stavo per entrarci dentro spavaldamente, mi sono trovato di fronte un grande pannello con su stampato: ingresso vietato tranne che per i membri dell'Assemblea legislativa e i funzionari stranieri. Ciò ha in qualche modo urtato le mie nozioni repubblicane, ma ho sopportato l'insinuazione che non ero abbastanza all'altezza per entrare dalla porta principale, e ho fatto il giro e sono entrato umilmente da quella posteriore. Se mai tornassi su queste isole, verrei come duca di San José e mi metterei tanti ornamenti quanti ne usano i migliori di loro. E un altro titolo di viaggio ci propone un'esperienza pressoché unica, quello di uno schiavo, David Dorr, che nel 1851 accompagnò il padrone in un viaggio intorno al mondo con l'incarico di redigere il diario di viaggio. Un diario che, come ricorda Antonio Brill nella prefazione, diventa il suo diario, il diario dell'autore, e come tale venne pubblicato nel 1858. Il libro si intitola Un uomo di colore in viaggio attorno al mondo, pubblicato da Ibis, 176 pagine, 14 euro, tradotto da Simone Taneri e introdotto appunto da Attilio Brilli. Lo schiavo si trovò coinvolto in questo grand tour più che in un viaggio avventuroso. Fu infatti un viaggio che lo portò in mete classiche, da Londra a Parigi, a Roma, a Costantinopoli, all'Egitto, mete dalle quali Dorr ricavò impressioni curiose, assolutamente slegate dalle tradizionali immagini monumentali di questi luoghi. Per esempio a Roma lo colpisce una fabbrica di maccheroni, descrivendoci puntualmente la loro fabbricazione; a Napoli uno squallido lupanare, ma anche il miracolo di San Gennaro; a Bologna per prima cosa vuole visitare delle fabbriche fabbriche di mortadella e a Firenze in particolare è colpito dall'egoismo degli italiani. Gli scrive infatti che gli italiani portano perenne rancore per un Paolo o un Baiocco. Non ho abbastanza clemenza, conclude, per giustificare l'egoismo di un italiano. Solo l'egoismo di un italiano è una sublime meschinità. Insomma, non gli abbiamo fatto una grande impressione. Asciutta e significativa è la conclusione del libro, nella quale egli esplicitamente richiama Dickens per rivendicare l'uguaglianza del genere umano e quindi per rivendicare la dignità anche di un popolo tenuto ancora in schiavitù. Nella stessa collana di libri di viaggio di Ibis è uscito Sulle orme degli elefanti, ritorno in Kenya, di Vivienne de Watteville, una nota, soprattutto all'estero, scrittrice di viaggi di origine elvetico-britannica, vissuta tra il 1900 e il 1957, che ora viene pubblicata in Italia. Questo libro è curato da Daniela Marin e Nora Salvadori, 16 euro, 272 pagine. L'Africa segnò il destino di questa scrittrice, che l'aveva visitata per la prima volta nel 23, giovanissima, in una spedizione di caccia che finì tragicamente col padre sbranato da un leone, ma vi torna in Africa qualche anno dopo la scrittrice, nel 28-29, ricavando questo libro raro, perché testimonianza appunto di un'esperienza insolita, quella di una viaggiatrice o di un'esploratrice coraggiosa e affascinata in particolare dal Kenya. Ci torna in Africa, come ci spiega ella stessa, perché era stregata, perché l'Africa mi aveva insegnato che solo nelle terre primitive e selvagge si può ritrovare se stessi e cogliere il senso dell'unità del mondo. La Watteville va in Africa per fare amicizia con gli animali e questo obiettivo suscita la riprovazione dei suoi interlocutori europei. Per esempio, quando chiede il permesso a un funzionario britannico di entrare in una riserva dei territori Masai, appunto per fare amicizia con gli animali, l'inglese sta quasi per esplodere e le urla: fare amicizia con gli animali, avvicinarsi e dargli delle pacche sul dorso, bah, pazzesco, non otterrai mai l'autorizzazione a partire per una meta così folle. La scrittrice comprenderà alla fine della spedizione che questo obiettivo di fare amicizia con gli animali comporta un cambiamento profondo della sua vita, e infatti scrive: non avrei mai potuto cambiare il colore della mia aura vivendo nella giungla con una provvista accuratamente selezionata di cibi e con servitori che si occupavano di me. Dovevo vivere non solo con semplicità e sobrietà, ma con uno sforzo intenso e una concentrazione spirituale che andasse oltre la mia capacità attuale. Solo se io avessi reso manifesto il potere dello spirito, gli animali avrebbero potuto diventare inoffensivi e sentirsi sicuri. Restiamo in Africa con un affascinante libro di Leo Frobenius, che fu un antropologo molto importante ai suoi tempi, vissuto tra il 1870 e il 1938, di cui Adelphi pubblica La storia della civiltà africana, 484 pagine, 35 euro. Il libro è tradotto da Clara Bovero ed è accompagnato da un ricco corredo fotografico, è del 1933 e rappresenta una pietra miliare negli studi sull'Africa e sull'approccio alla civiltà lontane. L'Africa ai tempi di Frobenius appariva infatti agli uomini del Novecento come un goffo rozzo gigante, una focaccia scaraventata là, massa inarticolata, gigantesca in forme. Queste sono le parole dell'autore. E invece egli ci spiega che l'Africa fu un deposito di civiltà armoniosamente costituite, scrive, che i conquistatori europei distrussero soprattutto per alimentare il commercio degli schiavi, e per giustificarsi i conquistatori si inventarono un alibi spacciando gli africani come una specie di bestia o di merce. L'immagine del barbaro negro, scrive lo studioso, è una creazione europea la cui ripercussione ha dominato l'Europa fino al principio del Novecento. Queste civiltà avevano un carattere comune, e qui sta l'intuizione più importante dell'autore, che così ci viene riassunta in queste pagine che vi propongo. Se percorriamo i grandi musei d'Europa, il Trocadero, il Museo Britannico, i musei belgi, italiani, olandesi e tedeschi, in tutti troviamo lo stesso spirito, lo stesso carattere, la stessa natura. Da qualunque parte del continente siano stati asportati i singoli pezzi, in ogni raccolta parlano tutti lo stesso linguaggio. Se il visitatore ne cerca l'espressione, non ha che da confrontare le forme che gli si offrono allo sguardo con quelle vicine delle raccolte asiatiche. In confronto con quello spirito raffinato si trova facilmente l'espressione dello stile africano. Ogni stoffa è più rigida nel cader delle pieghe, meno complicato il più ricco ornamento. Ogni arma è semplice e adatta allo scopo. Anche le forme delle zagaglie multipunte, che pur inclinano al fantastico. Ogni linea negli intagli è aspra e severa. Qui non c'è nulla che si sforzi di sedurre come espressione di pieghevole morbidezza. E tutto esala lo stesso odore di focolare che fuma nelle capanne, di pelli impregnate di sudore e di grasso, di glandole d'animali. Tutto è adatto a uno scopo, aspro, rigido, tettonico. Questo è il carattere dello stile africano. Chi l'ha avvicinato fino a comprenderlo a fondo, si accorgerà presto che esso domina tutta l'Africa e ne esprime l'intima essenza. Si palesa nei gesti di tutti i popoli negri, come nella loro plastica. Parla dalle danze e dalle maschere, dallo spirito della religione come dallo svolgersi della vita, dalle forme statali dei destini dei popoli. Vive nelle favole, nelle novelle, nelle leggende, nei miti. E invece ci porta nei Caraibi Derek Walcott, il premio Nobel per la letteratura 1992, con il libro La voce del crepuscolo, pubblicato da Adelphi, 280 pagine, 22 euro, tradotto da Marina Antonielli. Questa è una serie di scritti non solo sulle Antille, ma anche su scrittori di tutto il mondo, grandi scrittori, tra i quali per esempio Hemingway, che con le Antille ebbe un rapporto sempre particolare, dimostrato anche con il libro Isole nella corrente, che lo rende, scrive Walcott, uno scrittore caraibico, perché ferito com'era, questa parte di America gli sembrò nuova, nuova quanto il Mississippi per Mark Twain. E delle Antille Walcott parlò anche nel discorso per l'accettazione del premio Nobel, che qui viene ripubblicato, tutto giocato proprio sulle emozioni suscitate dalle principali città dell'arcipelago, che vivono anche idealmente della loro frammentazione. Infatti disse allora Walcott: l'arte antillana è questo restauro delle nostre storie frantumate, i nostri cocci di lessico, il nostro arcipelago che diventa sinonimo di pezzi staccati dal continente originario. Un altro viaggio che possiamo fare in questi giorni è il viaggio nell'arte. Vi propongo allora il libro di uno scrittore molto popolare, Vittorio Sgarbi, si intitola Il tesoro d'Italia, la lunga avventura dell'arte, è pubblicato da Bompiani, 466 pagine, 22 euro. Si parte idealmente dalle Marche, insaziabili di bellezza, scrive l'autore, dove si trova, aggiunge, tutto quello che la pittura italiana ha pensato e concepito. Ma da lì naturalmente parte un lungo percorso. In un'Italia spesso sconosciuta, dove sono ospitate delle opere magari di incomparabile bellezza, questo percorso comincia dalla scultura, da Villighelmo, dall'Antelami, dai Pisano e poi da tante opere pittoriche, alcune celeberrime, altre meno, ciascuna delle quali è presentata e commentata da Sgarbi con qualche intuizione sorprendente. Per esempio, quando parla di un famoso affresco di Pietro Cavallini nella chiesa di Santa Cecilia in Trastevere a Roma, mette accanto la figura del Cristo con quella di Che Guevara. Perché? Perché, secondo Sgarbi, quel Cristo ha le sembianze di Che Guevara, scuro e quasi sfrontato. Sempre a Roma, un altro viaggio che si può fare, con anche questo con un libro, che vi può accompagnare in questo viaggio, è la visita della Cappella Sistina. Vi segnalo per questo il libro di Alberto Angela, Viaggio nella Cappella Sistina, pubblicato da Rizzoli dalle edizioni Musei Vaticani, 254 pagine, 19,90 euro. La Cappella Sistina è naturalmente nel suo complesso un'opera capitale della cultura mondiale, che è in realtà, come scrive Antonio Paolucci nella sua premessa, una immane charada teologico-scritturale che è arduo comprendere al primo sguardo. E allora serve una guida che ci sappia spiegare i particolari non soltanto iconografici ma anche teologici di questo immane scrigno d'arte. E nel libro troviamo molte immagini, delle spiegazioni puntuali, una ricostruzione storica e una guida per cogliere appunto ogni particolare degli affreschi contenuti nella Cappella Sistina e per rispondere anche a qualche curiosità, per esempio che cosa successe davvero tra Michelangelo e i suoi collaboratori o se davvero ci sia stato un cambiamento dello stile, della tecnica di Michelangelo in corso d'opera. Se vi trovate a Roma e siete in giro per mostre, vi segnalo che fino al 16 di febbraio alla Fondazione Roma Palazzo Sciarra è aperta la mostra Il Tesoro di Napoli, i capolavori del Museo di San Gennaro. È una mostra curata da Paolo Iorio e Ciro Paolillo, il catalogo di Schirà, la quale Schirà pubblica in questa occasione un breve scritto di Alexandre Dumas, San Gennaro, 62 pagine, 7,90 euro, tradotto da Gino Doria. Sono pagine tratte dal Curriculo, un'opera in quattro tomi che Dumas scrisse tra il 1841 e il 1843 in occasione occasione di una visita che aveva fatto a Napoli e nell'Italia del Mezzogiorno. San Gennaro, ci spiega Dumas, è indissolubilmente legato a Napoli. Anzi, scrive, San Gennaro non sarebbe esistito senza Napoli, né Napoli potrebbe esistere senza San Gennaro. E grazie all'intervento attivo e vigilante del suo protettore, i conquistatori sono spariti e Napoli è rimasta. E qua c'è tutto un lungo elenco di conquistatori, normanni, svevi, angioini, aragonesi, spagnoli, francesi, messi in fuga in qualche misura da San Gennaro. E qui nel libro Dumas ci parla appunto di questo santo, del suo martirio, della sua domicilio a Napoli, e fino alle ultime pagine che riguardano il famoso miracolo. E queste pagine si concludono proprio con un cenno che Dumas fa agli scettici, agli atei, ai razionalisti che negano e si ostinano a negare la validità del miracolo di San Gennaro. Voltaire e Lavoisier scrive: han voluto mordere quella teca, quella del sangue di San Gennaro, e come il serpente della favola vi hanno consumato i loro denti. Queste analisi non convincono Dumas. Se davvero, egli scrive, ci sia un segreto che spiegherebbe lo scioglimento del sangue, com'è possibile, aggiunge, che questo segreto si sia mantenuto per tantissimi secoli, a partire dal IV secolo d.C.? E insomma, per Dumas, proprio questa fedeltà è una prova che il miracolo potrebbe essere vero. Io preferisco credere, conclude, semplicemente al miracolo, e per parte mia dichiaro di credervi. Non possiamo chiudere l'anno senza ricordare che il 2013 è stato il cinquantenario della fondazione di un'importante casa editrice italiana, quella di cui abbiamo appena parlato, Adelphi, fondata appunto nel 1963. In questa occasione è uscito un bel libro che si intitola Adelfiana, pubblicato da Adelphi, 784 pagine, 35 euro, che non è un libro celebrativo, o meglio lo è, ma in un modo intelligente. Infatti di ogni anno e degli oltre 2000 libri pubblicati in questi 50 anni sono stati scelti alcuni titoli che vengono presentati con le loro copertine accompagnate spesso da varie illustrazioni e con presentazioni di eccezione scritte dagli stessi autori o da amici e o da critici. E perciò il libro dà l'occasione per capire un grande fenomeno editoriale che certamente ha contribuito a cambiare l'editoria italiana. E a questo punto... Il confettino. Vi segnalo un nuovo mensile per i ragazzi che nasce con l'obiettivo ambizioso di generare dipendenza dalla lettura. Si chiama Super G, avventure, fumetti, storie, pubblicato da San Paolo e diretto da Stefano Gorla, 84 pagine, costa 3,90 euro, l'abbonamento 29,90 euro, e si rivolge ai ragazzi oltre i 12 anni. Nel terzo numero, che è appena uscito, troverete un'avventura fumetto ambientata tra un gruppo di strani pirati del Rio Medio e un racconto che invece ci presenta gli esordi del giovane Scrooge, per concludere poi con il ritorno di un personaggio italiano, il commissario Strada, anche questo è una storia a fumetti, protagonista di storie ambientata nell'Italia degli anni 70. Quindi in bocca al lupo alla redazione dell'editore e buona lettura ai ragazzi che si accostano a questo nuovo mensile. Con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Pietro Lacorte e Valeria Bernardi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento all'anno prossimo.